Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche e soprattutto del MES, perché si è riaccesa la, così, più che battaglia o scontro, il confronto su posizioni diverse e anche trasversali rispetto alla maggioranza. Non è un mistero per nessuno, infatti, che Forza Italia è a favore del ricorso al MES, il MES, quello, diciamo, pandemic, come si chiama in inglese, per la pandemia, che non ha nessuna condizionalità, però ne parleremo, perché ancora ci sono resistenze, a mio avviso, solo ed esclusivamente ideologiche. Mi riferisco, per quello che riguarda il governo, ai 5 Stelle, per quello che riguarda l'opposizione, Fratelli d'Italia e Lega. Non ho problemi a ricordarlo. Forse andrebbero letti nel dettaglio gli accordi, perché, per carità, le opinioni sono libere opinioni, ma poi esiste anche la forza dei fatti. Se non vi è nessuna condizionalità nel MES specifico, che non è il MES di quello, diciamo, firmato nel 2012, se non ricordo male, dai vari paesi, il 27 settembre, ma il MES varato apposta per la pandemia, che prevede l'utilizzo al massimo del 2% del PIL, quindi per l'Italia più o meno 40 miliardi, per investimenti diretti o indiretti di carattere sanitario, e nella voce indiretti, spese sanitarie dirette o indirette per essere precisi, e nella voce indiretti, un governo che sapesse anche articolare questa voce può richiedere, utilizzare soldi del MES per l'edilizia scolastica, per mettere in sicurezza l'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza di aziende che riprendono la produzione, per assumere personale medico e paramedico, ma anche appunto per la prevenzione sanitaria in altri campi. Faccio un esempio, visto che abbiamo avuto ospite questa mattina il ministro Azzolina. I soldi per mettere in sicurezza le aule, al di là del miliardo che il governo ha dato in più negli ultimi giorni, potrebbero essere utilizzati direttamente dal MES e nessuno potrebbe obiettare nulla. Poi c'è un tema che riguarda non solo questi 40 miliardi, come utilizzarli, ma anche i soldi che risparmi, perché uno potrebbe dire: vabbè, ma io questi 40 miliardi li voglio trovare sul mercato. Bene, ogni paese ha costi diversi per reperire soldi sul mercato. Noi abbiamo un costo ancora abbastanza alto, più alto della Spagna e del Portogallo. Molti chiedono: ma perché la Spagna e il Portogallo non li usano? Faccio notare che la Spagna e il Portogallo hanno un minor vantaggio, perché già adesso gli costa molto poco indebitarsi sul mercato, hanno uno spread che è la metà del nostro, e invece noi avremmo un vantaggio, perché sostanzialmente il tasso di interesse è pari a zero i primi 7 anni, e vale 0,08% se va fino a 10 anni. Il risparmio è calcolato in 5 miliardi di euro su 10 anni, 4 miliardi e 800 milioni per essere precisi, che mi sembra un ulteriore, oltre a utilizzare quei soldi, poi hai anche un risparmio nell'utilizzarli. Ho capito che 40 miliardi potresti prendere anche sul mercato, ma ti costerebbero 44,8 in 10 anni invece che 40 come questi. Ecco perché non capisco, al di là delle posizioni ideologiche. A me sembra che in questo momento, cioè non vorrei rivedere l'errore fatto in altri approcci, cioè se c'è qualcosa che questo Covid ha lasciato come, a mio avviso, definitivo, ci sono tante cose, per carità, però sono scomparsi i Novax. Non so se qualcuno se n'è accorto, ma non c'è più polemica sui vaccini, anzi siamo tutti qua a chiedere un vaccino per il Covid. È scomparso con un attacco all'Europa, vero come l'ipotesi dell'Italexit. Chi si può immaginare in questo momento un'uscita dell'Italia o un allontanamento dell'Italia dall'Europa nel momento in cui stiamo chiedendo soldi all'Europa, vedi il Recovery Fund. E quindi vorrei che da questo punto di vista magari si uscisse dall'ideologia anche sul MES. Poi sui modelli di sviluppo uno può pensarla come vuole, per carità. Però vorrei che si ragionasse sulle cifre. Qualcuno mi scrive dei Navigator, ce ne occuperemo spero già da domani, perché qui c'è il tema di cosa fanno i Navigator e soprattutto cosa fa il loro capo, Parisi, Mimmo Parisi, presidente dell'ANPAL, al di là della sua nota spesa, vorrei capire insomma che cosa stanno facendo i navigator. Sono pagati 26.000 euro l'anno più il rimborso spese di 300 euro al mese. Ma ce ne occuperemo domani. Manteniamo un tema per volta. Dopodiché parleremo invece, oltre che del MES, che è lo scoglio in questo momento del governo, anche perché non sarà sfuggito che l'intervista di Angela Merkel, prima alla stampa e poi a Frankfurt Allgemeine Zeitung, se non ricordo male, dice: attenzione, però cosa abbiamo fatto il MES se poi nessuno lo utilizza? Ad ora lo ha richiesto solo Cipro. C'è un tema anche politico, oltre che finanziario, perché se l'Italia inizia a dire no a questi soldi, poi è più difficile dire perché hai bisogno dei soldi del Recovery Fund. Se allora ritieni di poterti finanziare tranquillamente sul mercato, offri un'arma ai paesi cosiddetti frugali per dire vabbè, allora vatti a finanziare sul mercato, tanto se sei tranquillo su questo. Per quello che riguarda invece gli altri temi, faccio notare che, vabbè, a parte alcune novità sul DL semplificazioni che ha appena iniziato il vertice Merkel bilaterale Macron vicino a Berlino, al castello di Meisenberg, si dibatterà soprattutto delle trattative in corso in Europa sul Recovery Fund. L'altro tema di cui ci occuperemo, oltre adesso darò anche i mercati finanziari, chiaramente riguarderà da un lato un elemento che può sembrare un dettaglio, oggi l'appuntamento è con Alessandro Paterotti con Dietro la Notizia, però poi quando io continuo a dire che al di là dei grandi proclami, dei grandi stati generali, poi bisogna entrare nelle pieghe delle cose, perché ogni settore di impresa sta soffrendo in maniera diversa e per alcuni casi bisognerà continuare a mantenerli in vita, penso al turismo, ma non solo, penso anche alla ristorazione, a tutti gli esercizi commerciali nei centri direzionali dove gli uffici sono vuoti e via così, e altri settori invece potranno farcela con le loro gambe. Ecco, da questo punto di vista poi ci sono dei il governo annuncia penso al DL rilancio, da me chiamato DL ristoro, annuncia delle operazioni anche corrette e poi l'Agenzia delle Entrate con una circolare le smonta de facto. Ne parleremo con Paterotti. È il caso del leasing finanziario per le imprese, che secondo la legge avrebbe dovuto garantire anche le imprese che hanno avuto un leasing finanziario per acquistare per esempio macchinari, potevano ricorrere al credito d'imposta del 60% sugli immobili, e in realtà sono uscite per una circolare interna. Ora, delle volte, questo è il classico esempio, riguarda qualcosa come più di 80.000 imprese, non proprio 8 imprese in questo paese. Ecco, questa è la dimostrazione di quando il governo decide una cosa e l'annuncia, e poi la circolare, che tutti ignorano perché è noiosa, è tecnica, è meglio parlare di una nuova economia verde e quant'altro, e poi ti smontano una cosa in questo momento. L'esempio che ho fatto nei giorni scorsi, a me sembra che delle volte si stia a discutere, come se una coppia, marito e moglie, stessero discutendo su che tipo di relazione avere nel futuro, se stare ancora assieme, separarsi o no, nel momento in cui ti sta bruciando la casa. Allora, è ovvio che poi ci puoi anche pensare a che tipo di modello di capitalismo vuoi avere, spostare, ma nel frattempo devi salvare la casa, poi discuterai del modello di capitalismo. Se non tieni e non porti, non traghetti il maggior numero di imprese da qua, diciamo, a fine anno, non avrai neanche motivo per discutere di un modello di capitalismo, perché non ci sarà più il capitale d'impresa se continuiamo così. Quindi salviamo la casa e poi andiamo a discutere sui modelli e rapporti nuovi. A questo proposito, altro tema piccolo, non diciamo così palingenetico come quelli che piacciono tanto ai teorici dell'economia, è il tema di quello che sta capitando in Liguria. Perché già il turismo è in ginocchio, già vi sono molte difficoltà, già i turisti, anche per i blocchi, mi rendo conto che vi sia un motivo di sicurezza, non stanno arrivando, Stati Uniti, Brasile, Asia. Se poi ci mettiamo una gestione delle autostrade in Liguria disastrosa, non ho altri termini, cioè ha di nuovo decine di chilometri di coda in tutto il fine settimana, e il presidente della regione Liguria Toti ha sollecitato il ministero e ASPI a modificare il piano di controllo di lavoro in corso nelle autostrade Ligure, ci si chiede, ma è possibile che con tutto il tempo che uno ha avuto per fare un piano di controlli tu debba farlo proprio quando sta ripartendo un po' il turismo nazionale in queste settimane? È vero che tutti mi segnalano che in Liguria i ristoranti erano pieni, io sono contento, cioè voglio dire, se sei distanziati, se seguendo le regole previste, sono più che contento. Però voglio dire, vorrei anche capire che è successo, non è pensabile che ci si metta 4 ore a fare un chilometro o 5 ore se va bene arrivare in Liguria dalla Lombardia o dal Piemonte, perché non riparte nulla così, no? Dettaglio, per carità, poco entusiasmante, non è un ragionamento sul ruolo dello Stato nel capitalismo o quant'altro, però purtroppo noi siamo così prosaici, siamo in senso, a mio avviso nobile, un po' contadini, pane al pane, vino al vino, lo so, poi altri preferiscono gli inglesismi e infatti non seguono questo programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. A chi mi dice la casa che brucia la salvi con il MES, no, non c'entra, la salvo anche con il MES, certo, la salvo con i pompieri, per usare l'esempio, e poi discuto se voglio ancora avere un rapporto con mia moglie oppure se il nostro rapporto debba cambiare, se dobbiamo separarci, avere un altro, non lo so, tutto quello che vogliamo, ma non si può immaginare un futuro del capitalismo mentre non riusciamo ad arrivare a fine mese. Per favore, perché primum vivere, de inde si fa filosofia, modelli, tutte cose che piacciono a chi insomma legge qualche libro, da lì trae ispirazione e poi però magari in un'impresa, in un capannone, non l'ha mai visto e non può capire cosa sia il leasing finanziario. Mamma mia, che noia il leasing finanziario, vuoi mettere a parlare di green economy? Quello è molto più fico. Allora, partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Continuano i casi in India, 20.000 casi in 24 ore. Devo dire che io capisco molto bene i blocchi, i timori su alcuni flussi turistici. Voglio dire, in questo momento dal Brasile, dagli Stati Uniti, soprattutto dal sud degli Stati Uniti, dall'India, come fai, diciamo, a dare un via libera? Tant'è che poco fa è uscita la notizia che perfino la Grecia, che era il paese che aveva deciso di fare i corridoi per primo, anche perché vive ancora più di noi di turismo, la Grecia ha deciso di vietare fino al 15 luglio i voli dalla Gran Bretagna e dalla Svezia, due paesi considerati ancora a rischio. La Svezia si commenta da sola, una debacle su tutti i fronti, il modello svedese, tant'è che Danimarca e Norvegia mantengono tutti i vincoli all'ingresso degli svedesi, se non per motivi di lavoro. Perché la Danimarca e la Norvegia hanno un decimo dei decessi e dei ricoveri della Svezia, che ha scelto il modello, no? Grazie a quel virologo, non mi ricordo più il nome, del tutto aperto, non facciamo nessun lockdown, e infatti si è visto. Devo dire anche che almeno il premier britannico Johnson, ricorderete, no? Una comica se non fosse tutto tragico, una farsa per dire con i greci se non fosse già tragedia, prima annuncia che dovremmo abituarci a rinunciare ai nostri cari, che vorrà puntare all'immunità di gregge, poi lui è uno di quelli che rischia di diventare qualcuno a cui rinunciare, è uscito da una delicatissima fase di recovero, ringrazia tutti i medici, infermieri, nella maggior parte dei casi erano non britannici e anche rifugiati. Allora, Johnson cosa ha detto oggi? Ha detto durante un'intervista a Times Radio: la pandemia di coronavirus è stato un disastro per il Regno Unito, dove si è registrato il bilancio di morti più pesante d'Europa in cifra assoluta, sono 43-44 mila decessi in questo momento in Gran Bretagna. È stato un disastro, un incubo assoluto per il nostro paese, stiamo imparando le lezioni necessarie, anche se dice per ora è prematuro pensare a un'inchiesta pubblica. Beh, te credo, metterebbe sotto i riflettori anche la gestione del governo alla ricerca di errori e lacune. Ha detto la Gran Bretagna saprà riprendersi, punta un approccio alla Roosevelt, attenzione, perché lui è un conservatore sui generis, per carità, però viene da un mondo che con Roosevelt teoricamente ha poco a che fare, fatto di investimenti di stimolo nelle infrastrutture come negli Stati Uniti al New Deal, al grido di costruire, costruire, costruire. Ora, chissà se qualcuno lo ascolta anche qua, visto che aspettiamo il DL semplificazioni per fare procedure d'appalto almeno sulle opere già che hanno già ottenuto via libera, su cui c'è già stato lo stanziamento dei soldi. Però poi occorre che arrivi questo DL semplificazioni e fate partire questi investimenti. Dunque, mi scrive un ascoltatore: ma la Gran Bretagna ha il doppio dei nostri abitanti. Mi scusi, ma lei che film guarda? Ma io dico, ma prima di scrivere un WhatsApp, io capisco che WhatsApp costa niente, ma voglio dire, ma almeno uno può andare a fare, cioè vai a vedere, non ci metti molto, Wikipedia, non so, quello che vuoi, e vai a vedere il numero di abitanti della Gran Bretagna e il numero di abitanti dell'Italia. Il doppio. Vabbè, andiamo avanti. La buona notizia di oggi è che l'indicatore della fiducia, diciamo, continua a salire nell'area euro nell'Unione Europea. Gli aumenti più significativi si sono registrati in Francia, 9 punti in più, nei Paesi Bassi 8 punti in più, e in Spagna e in Italia 8 punti in più. Stiamo comunque parlando dei livelli più bassi degli ultimi 20 anni, quindi tutto è relativo. Però insomma, che vi sia qualche segnale, almeno in quello che gli inglesi chiamano sentiment di miglioramento, non, cioè, lo prendiamo, vista la scarsità di notizie positive, lo prendiamo come notizia positiva. La von der Leyen, presidente della Commissione Europea, dice: occorre approvare il recovery fund entro la pausa estiva, aiuti più che prestiti per non soffocare i paesi, cioè sovvenzioni più che prestiti per non soffocare i paesi. Devo dire che la von der Leyen è netta su questa linea. In questo momento il futuro dell'Europa è in mano, io mi spero che vada meglio che con nel passato, a tre donne, cioè Angela Merkel, che prende dal 1 luglio la presidenza dell'Unione Europea, la von der Leyen, che ha la presidenza della Commissione Europea, e la Christine Lagarde, che ha la presidenza della Banca Centrale Europea. E siamo nelle loro mani, ma mi sembra, devo dire la verità, che sapete quanto ho criticato la Merkel negli anni scorsi, che vi sia una grossa consapevolezza da parte di entrambi e anche pragmatismo. Adesso non voglio fare affronti, ma certo che se mi parlate di Juncker e Trichet, devo dire, tutta la vita Lagarde e von der Leyen. La Toyota nel frattempo ha annunciato un crollo della produzione globale a maggio del 54%, venendo all'Italia lo spread è leggermente in calo a 175 punti. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM, che rinvia al 20 luglio senza maggiorazioni le scadenze riguardanti i saldi, acconti di IVA, imposte dirette, IRES e IRPEF. Attenzione, perché da quello che avevamo capito noi, questo dovrebbe essere ancora un elemento parziale per poi arrivare a un'ulteriore proroga, ce lo spiegò bene Gianni Trovati, perché può essere rinviato oltre il 20 luglio, cioè fino al 20 agosto, ma lì si paga una maggiorazione dello 0,4%. Però da quello che abbiamo capito il governo poi punta a posticipare ulteriormente rispetto alla scadenza del 20, al posticipo del 20 luglio. Il DL rilancio, vi sono vari emendamenti che sono arrivati. C'è un emendamento che prevede il bonus a medici e che sono stati impegnati durante l'emergenza Covid, e poi medici, infermieri, personale sanitario, ci mancherebbe. E poi c'è un emendamento che chi ha maturato entro il 31 dicembre 2020 almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni in un'amministrazione pubblica che vada poi a bandire un concorso, può essere assunto a tempo indeterminato in ruoli non dirigenziali. Quindi per i precari della pubblica amministrazione a tempo anche non continuato per 3 anni possono essere assunti, se c'è un concorso, come assunti a tempo indeterminato. E poi le imprese che operano nei settori ricreativi, dell'intrattenimento, ma anche di feste e cerimonie, saranno erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro nel 2020. È poco, lo dico, devono avere perso almeno il 50% del fatturato rispetto al 2019, però attenzione, anche qui so che è un settore che può sembrare un po' prosaico così. La regione Puglia aveva un indotto, aveva purtroppo, di circa un miliardo con l'indotto di euro all'anno dall'organizzazione di matrimoni ed eventi. Era stata molto brava anche come operazioni marketing, miliardari indiani, ma non solo. Un miliardo di euro, incluso l'indotto, è tantissimo, perché vuol dire, voi immaginate, tutto il catering, la parte vivaistica. Tra l'altro sono in ginocchio anche i nostri produttori di fiori, ce ne occuperemo. Stiamo parlando di 477.000 addetti, 27.000 persone, e il catering, la ristorazione, gli alberghi e quant'altro. Ora, tra marzo e maggio sono stati rinviati 60.000 matrimoni e più del doppio quelli in calendario, quindi sono ancora 120.000 matrimoni in calendario che avranno la stessa sorte. Ora, può far sorridere la cosa, però è un settore che fattura 15 miliardi l'anno e ci sono centinaia di migliaia di lavoratori senza lavoro e spesso senza reddito. 50.000 imprese e partite IVA sono a rischio sopravvivenza. Ecco perché poi vedi, in un settore come quello tu non puoi trattarlo come la farmaceutica, che per fortuna va bene, o l'alimentare, che ha sofferto ma non come altri settori. Quello è un settore che non risentirà delle leggi del lockdown, risentirà dell'atteggiamento delle persone. Chi va a organizzare un matrimonio adesso? E allora dovrai se non vuoi chiudere completamente 50.000 imprese e mandare a casa i relativi addetti, dovrai cercare di operare anche con fondo perduto, e mi sembra che 5 milioni siano ancora briciole. Allora, adesso, vabbè, poi altre notizie che riguardano l'obbligo di mascherina in Lombardia fino al 15 luglio. Sul DL semplificazioni vi sono varie bozze, ma non voglio affrontarle, se no si crea solo casino, perché quando avremo il DL nella versione definitiva cercheremo di capire che cosa, per esempio, se e come vengono semplificati gli appalti senza gara, solo due soglie oppure no, insomma, come si semplifica e come si riesce a rendere più veloce quello che io mi auguro sia un immenso investimento in infrastrutture nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Un'ultima notizia, poi andiamo sul meteo e la pubblicità. 2 miliardi di euro di crediti deteriorati della Banca Popolare di Bari sono stati acquistati da AMCO, e qui c'è stata anche poi nel frattempo grande soddisfazione espressa dal Ministro dell'Economia Gualtieri per l'assemblea della Popolare di Bari, che ha trasformato in SPA e poi ricapitalizzato e speriamo rilanciato la Popolare di Bari dopo la disastrosa gestione della famiglia Iacobini. Visto che parlavo di Pop Bari, andiamo sulla borsa: più 1,90% Milano, più 1% Parigi, più 1,40% Francoforte, più 1,20% Londra, più 1,80% il Dow Jones, bene Banco BPM più 6,15%, Unicredit più 5%, Mediobanca più 4,60%, Exor più 3,70%, come Nexi il 3,5% guadagna CNH, il 3% il rialzo di Fineco e Poste Italiane, ma anche di Banca Generali, UbiBanca e Intesa San Paolo. Fronte opposto di Assoni meno 0,80, Amplifon meno 0,30%, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul meteo. Focus Economia. Allora, il MES della discordia, andiamo qui. Dunque, parlo delle cifre e dei numeri, perché poi le opinioni in questo caso mi interessano poco. Il MES nasce nel 2012, 27 settembre. Poi, quest'anno, due mesi fa, l'Europa decide di creare un MES parallelo, ossia una linea dedicata solo all'epidemia pandemica, che ha regole diverse dal MES utilizzato da Portogallo e Grecia e Spagna nel 2012, che aveva invece delle grosse condizionalità sull'utilizzo di questi soldi. L'unica condizionalità è che venga utilizzato per spese sanitarie dirette o indirette, quindi dagli ospedali all'assunzione di personale medico e paramedico, la messa in sicurezza di aziende che riprendono la produzione, l'edilizia scolastica, no? I vincoli preliminari? Allora, non è prevista la sorveglianza rafforzata, quella diciamo utilizzata per il MES classico. E l'intero sborso avviene tutto entro il primo anno di vita e poi tu paghi gli interessi nel corso degli anni. L'unico vincolo è appunto la destinazione della spesa, cioè non puoi usare il MES per ridurre le tasse o per fare diciamo un ponte, non è quello lo strumento. Metti a posto un ospedale, metti soldi nell'istruzione per riqualificare le aule, quello sì, perché è tutto elemento che metti, o un'impresa, o dai delle agevolazioni alle imprese che spendono per mettere in sicurezza, quello lo puoi fare, oltre che assunzione chiaramente di personale medico e paramedico. Ancora, tra l'altro, anche se tieni a casa gli operai e i dipendenti per come prevenzione, potrebbe questo rientrare nel MES. Allora, quanto possiamo prendere? Sto sempre alle cifre, fino al 2% del nostro PIL, ogni paese, per noi vuol dire 40 miliardi. Quanto ci costa? Allora, anche qui le cifre sono molto chiare, è lo 0,08%, poi dipende per quanto tempo vuoi usarlo, nel senso che se tu è un interesse praticamente negativo se lo usi per 7 anni, cioè rimborsi meno di quello che hai preso, un po' come i Bund tedeschi in questo momento che hanno tasso di interesse negativo. Se lo utilizzi per 10 anni è allo 0,08%. Ora, andando a vedere quello che ci costerebbe trovare 40 miliardi in questo momento con i tassi di interesse che abbiamo sui BTP all'1,34%, la differenza fa in 10 anni 4 miliardi 800 milioni di euro in meno di interessi. Qualcuno ha scritto, ma chi se ne frega su 2.000 miliardi di debito? Insomma, visto che per la scuola si è tirato fuori fatica 1 miliardo, immaginate se di questi 4 miliardi 800 milioni di risparmi utilizzassimo 2 miliardi per la scuola, sarebbe già il doppio. E poi nel frattempo avresti questi 40 miliardi, di tutti in una tranche, da spendere subito e da rimborsare, appunto, come abbiamo detto. E quindi insomma sono più o meno 500 ai 700 milioni di interessi all'anno in meno. Professor Massimo Bordignon, che insegna scienze delle finanze ed è direttore dell'Istituto di Economia e Finanze dell'Università Cattolica di Milano, nonché componente dello European Fiscal Board. Buonasera. Buonasera a lei. E grazie anche a Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto, perché è chiaro che a questo punto, cioè, il lato è molto politico. Ma adesso vi arriviamo. Bordignon, mi dica una cosa, io ho elencato la parte tecnica. Allora, qualcuno, cerco di fare l'avvocato del diavolo, qualcuno dice, ma guardate che è impossibile che uno strumento, per quanto modificato, cioè il MES Pandemic, come si chiama in inglese, non possa avere delle condizionalità, cioè non posso poi andare a dire, va bene, ma quei soldi come li, forse non li hai utilizzati bene. A me risulta che l'unica condizionalità è che tu lo faccia entrare sotto la voce spese sanitarie dirette o indirette, quindi ponte sullo stretto no, per capirci, prego. E neanche la riduzione delle tasse, come ha detto lei, neanche che probabilmente uno vorrebbe ragionare un attimino se conviene più spendere per personale, che poi è una spesa di lungo periodo, piuttosto che spese nel conto capitale, che potrebbero invece essere più finanziate più agevolmente con un prestito di questo tipo. Ma detto tutte queste cose, io confermo quello che ha già detto lei, cioè è chiaro che il MES è stato costruito per altre ragioni, cioè era basato su un'idea di condizionalità, perché doveva supportare dei paesi che non avevano più accesso al mercato e che in cambio di questi soldi avrebbero preso una serie di iniziative per rendere di nuovo la loro finanza sostenibile. Questa era sostanzialmente l'idea originale. È già stato utilizzato in realtà in passato con delle condizionalità minori. Lei prima ha menzionato il caso della Spagna, ecco, nel caso della Spagna non c'è stata particolare condizionalità, sono soldi presi a prestito per intervenire sulle banche, stava fatto un intervento e i soldi sono stati... Però quello era il vecchio, cioè il MES tradizionale, quello del 2012, non quello pandemico. Quello pandemico è sempre il MES, la differenza di fondo è che c'è una linea, che sono linee precauzionali, perché erano già previste in precedenza, ma mai utilizzate da nessuno. Mm-hmm. E questa linea precauzionale è stata inserita apposta, è risultato ovviamente di un accordo di carattere politico, E praticamente quello che ha fatto la Commissione è smontare uno dopo uno tutti quei meccanismi che potevano condurre a una condizionalità maggiore rispetto a quella che riassunto lei. Quindi qui la condizionalità è veramente semplicemente limitata a come si spendono. E non c'è nemmeno nessun meccanismo particolare, cioè il controllo avverrà attraverso quei meccanismi naturali che si fanno per tutti i paesi sempre, in cui la Commissione può fare le sue proposte. Sì, ma questo c'è già anche quando utilizziamo i fondi europei. Cioè non è che quando utilizziamo i fondi europei non utilizziamo i fondi europei perché molte regioni del sud non riescono a spenderli, la Commissione europea non venga a controllare. Ti dice, scusami, cara regione Campania, Puglia, faccio gli esempi più chiari, Sicilia, non sei riuscito a spendere quei soldi, bene, addirittura li trasferisce ad altri paesi per il famoso piano di convergenza, cioè altre aree, l'Estremadura in Spagna o altre aree del Portogallo. Quindi non solo non li usiamo, ma vengono dati ai nostri, tra virgolette, concorrenti. Quindi c'è già un controllo dei fondi europei. C'è già un controllo dei fondi e poi naturalmente questi sono soldi, vengono spesi sulla sanità, ma il money is fungible, come si dice. Cioè, esatto. Siccome io devo comunque spendere dei soldi sulla sanità, che li prendiamo o che non li prendiamo dal MES, vorremmo pur investire sulla sanità adesso, dopo tutto quello che è successo, e per renderla più robusta in futuro. Se io prendo i soldi lì, i soldi che risparmio gli interessi, posso spenderli da un'altra parte. Quindi... ecco, questo è il principio. Qualcuno mi dice, ma allora se non posso utilizzarli per... No, attenzione. Poniamo che tu debba spendere 100 miliardi. È ovvio che siccome di questi soldi alcuni li vuoi già spendere, per esempio per la sanità e per la sicurezza scolastica. Scusate, mi abbiamo messo 1 miliardo adesso per fare l'accordo con le regioni per la ripartenza delle scuole. Quello è un esempio lampante. Oppure vuoi dare i soldi o dare delle decontribuzioni, faccio per dire, dei crediti d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per la messa in sicurezza? Vuoi risarcire o aumentare gli stipendi e assumere personale sanitario, medici, paramedici e quant'altro, e anche personale scolastico? Perché se poi serve per la messa in sicurezza delle classi, per avere classi in un pollaio, rientra tutto nelle spese sanitarie dirette e indirette. A quel punto quei soldi li prendi dal MES e non li prendi da altre parti, quelli che tra virgolette non hai dovuto utilizzare perché hai usato quelli del MES, li puoi utilizzare per le infrastrutture che non sono previste dal MES. Però prima di arrivare al punto vero, che ahimè è, e dico ahimè, solo politico a mio avviso, e quindi con Alberto Rioli, vorrei chiedere un'ultima cosa e un'altra cosa al professor Bordignon. Mi scusi, il piano europeo, che tutto si può dire sto giro, basta che, ma l'Europa ci sta mettendo i soldi e i piani questa volta, è un tavolo di quattro gambe. Una si chiama SURE, che sono i soldi che noi potremmo prendere per la cassa integrazione, e visto che si sta trattando su uno scambio tra 5 Stelle e PD, per cui la cassa integrazione andrà avanti fino al 31 dicembre, ma il PD ottiene la sospensione delle causali sul tempo determinato, la dico male, e così 5 Stelle sono contenti che vanno avanti con la cassa integrazione e il PD ottiene la sospensione di quella follia che fu il DL Dignità, a mio avviso. Però c'è lo strumento SURE e nessuno l'ha messo in discussione, tant'è che anche Conte ha detto utilizzeremo i soldi dello SURE, quelli per la cassa integrazione. Ci sono i fondi della BEI, Banca Europea degli Investimenti, nessuno l'ha messo in discussione. C'è il recovery fund e lì tutti premono perché si faccia questo accordo, il recovery, adesso basta non pensare che arriva Pantalone e paga per tutti, però dove l'Europa si sta spendendo perché i 2/3 siano non prestiti ma siano sovvenzioni e solo 1/3 siano prestiti, Germania e von der Leyen in primis. E poi c'è il recovery, sono quattro gambe di un tavolo. Professor Bordignon, lei si è fatto un'idea del perché tutto, e poi c'è il MES per il Covid. Perché tutta la polemica si è concentrata su una gamba del tavolo, su sto MES Recovery, come se gli altri soldi non fossero anche quelli, diciamo, poi devi andare a vedere come li utilizzi? Okay, intanto le gambe sono 5 perché si è dimenticata la BCE, che ovviamente... Vabbè, no, vabbè, ma quello per me è il tavolo. Quello no, quello, guarda, hai ragione, però quello è il tavolo, non sono le gambe, perché la Lagarde sta facendo un'operazione monstre sulla scia del mitico Mario Draghi, prego. Esatto, quindi adesso sono da 750 miliardi, sono stati portati a 1.350 miliardi fino a giugno del 2021, che per noi è una grande valvola di sicurezza. Ma detto di ciò, penso semplicemente che se lei ha una posizione di partenza sovranista, per cui pensa che tutto sommato, giustamente o non giustamente, il paese dovrebbe farcela da sé, non dovrebbe uscire o comunque difendersi nel resto dell'Europa, è molto più facilmente aggredibile il il MES di quanto siano gli altri istituti ammessi insieme, perché la differenza, c'è una differenza di fondo, io non credo che va, questo vada anche detto. Il SURE come il Recovery Fund sono, come la BEI, sono organismi in qualche senso sovranazionali, nel senso che quelli sono, adesso sia il SURE che il Recovery Fund lo finanziamo col bilancio europeo, cioè il bilancio europeo, l'Unione Europea si indebita e poi trasferisce sotto forma di grant o di loan, cioè di prestiti agevolati ai paesi. Nel caso invece del MES c'ha questo punto di partenza, è un istituto intergovernativo in cui ci sono i paesi che mettono i loro soldi e siccome mettono i loro soldi li prestano a qualsiasi altro devono giustificare nei confronti dei propri paesi, dei propri cittadini come li spendono. Con l'Unione Europea è già un meccanismo un po' diverso, c'è un istituto proprio di tipo sovranazionale. E poi naturalmente il MES ha una cattiva fama più o meno giustificata rispetto a... Infatti secondo me andava cambiato il nome. Guardi, io sono convinto, a questo punto poca fiducia nella capacità analitica di alcuni elementi della classe politica. Se tu l'avessi chiamato Punte MES o l'avessi chiamato Bordignon, l'avessi chiamato Orioli, nessuno rompeva le palle. Siccome si chiama come il MES l'altro, quello che invece tu, a parte il fatto che lei ricordava che perfino in Spagna che l'ha utilizzato per salvare le banche, non è che gli ha messo tutta questa condizionalità, però ricordava lo strumento del 2012, periodo in cui l'Europa non si mosse per colpa della Germania bene nei confronti della Grecia e della Spagna, e lo ribadisco qua e qualcuno vada a risentirsi le puntate se dubita, e forse sto nome ormai era diventato, capito, come TAV, TAP, MES, tutti gli acronimi, dovete estenderlo, dovete chiamarlo non so, madama qualcosa, perché io sono anche d'accordo, ma non ci posso fare niente. Qui il punto credo che banalmente lì fosse fatto. Usiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione. Uno degli strumenti a disposizione c'era quindi questo fondo Santa Vastavi, che era stato messo lì per fare altre cose, ma tramite un accordo politico è stato utilizzato adesso per una forma diversa. Dopodiché, voglio dire, come lei giustamente ha sottolineato prima, è solo uno dei tanti strumenti e dei tanti interventi. Però c'è una domanda che giro a lei e poi ad Alberto Orioli. Mi chiede un ascoltatore, ma perché non possiamo prendere solo il tavolo con tre gambe? A parte che i tavoli con tre gambe reggono meno. Ma ho capito la domanda, cioè prenderci il SURE, il BEI, aspettare il recovery e non prendere il MES. No, allora lo possiamo fare, semplicemente non ci conviene, ma poi uno può benissimo decidere per un'altra ragione, dal punto di vista politico non lo può fare. Allora, il problema è questo, che questo recovery fund, che noi lo chiamiamo recovery, ma se si ricorda la parte principale si chiama recovery and resilience fund, perché sì. Non sono soldi che, siccome il bilancio europeo che stanzia delle risorse, verranno spesi nei prossimi 7 anni sulla base di progetti, devono essere presentati nel giro di 4 anni, eccetera, sono comunque soldi che verranno e che saranno resi disponibili solo a partire dagli anni prossimi. Inutile immaginare che questi soldi siano a disposizione adesso. Adesso, per far fronte alla crisi che colpirà soprattutto dal punto di vista economico a ottobre, cioè nell'autunno e tutto quanto, abbiamo bisogno ora di risorse. Allora, tra queste risorse il SURE si può utilizzare immediatamente, si può utilizzare anche il MES perché è appunto un intervento sulle spese sanitarie, gli altri fondi arriveranno più avanti, quindi è un discorso puramente temporale. Poi uno può anche decidere di non prenderli se questo da un punto di vista politico è un'obiezione così importante. È un po' insensato rispetto a quello che c'è scritto dentro, perché c'è una cosa, e c'è una cosa che non abbiamo detto però, anzi due. La prima è che noi abbiamo già versato 14 miliardi nel MES, quindi attenzione che quelli sono soldi che abbiamo già dato, almeno te ne becchi, io non so, ragionerò troppo da massaia, ma te ne becchi 37-40. E l'altra Bordignone e Orioli, adesso Alberto sta accumulando un insieme di domande, ma l'altra obiezione che mi viene fatta, perché gli altri paesi non lo vogliono? Io ho capito che Portogallo e Spagna, avendo dei tassi di indebitamento molto più bassi dei nostri, hanno meno convenienza. Cipro per esempio l'ha preso, Bordignon. Sì, ci sono alcuni paesi per esempio come appunto qual è la convenienza? Ma ha detto lei, la convenienza principale consiste nel fatto, ce ne sono anche altre, no? Perché più in generale il messaggio generale è che l'Europa, l'Italia comunque è in linea con queste richieste europee, e tra l'altro una delle possibilità, anche se non è chiara, è che l'accesso al MES potrebbe aprire come potenzialità l'accesso alle OMT, che sono questa forma ancora più forte di acquisto di debiti, di beni pubblici da parte, di titoli pubblici da parte della Banca Centrale. Quindi ci possono essere anche altre ragioni. Ma poi la vera domanda è la convenienza. Qual è la convenienza? La convenienza sono la differenza di interessi. Noi, grazie alla BCE, come lei ha ricordato, fino a 10 anni possiamo indebitarci ancora con un tasso di 1.4. Il problema è la Spagna e il Portogallo a 0,40. Appunto. Si indebitano a 0,40. Allora, dunque, qualcuno dice non offenda le massaie. No, guardi, io vorrei che io penso che sia un elogio. Io vorrei che il governo ragionasse più da massaia, che fa i conti della spesa nel dettaglio, entra in ogni singola voce, va a vedere qui, lì, poi ne parleremo anche con Platerotti. Non facciamo cavolate lì, attenzione. Non vorrei che non si facessero solo discorsi così da filosofo, come se tu andassi a dire bisogna risparmiare, bisogna cambiare modello di sviluppo. Sì, e poi. Allora, Alberto Orioli, poi resti con noi perché hai accumulato un credito non di imposta ma di diretta che è lungo. Tu hai capito, alla luce anche di quello che ricordava Bordignon, è un problema di nome, ormai ci sei incagliati solo su un problema ideologico e quindi di posizionamento politico? Ma francamente credo l'80% sia quello, è un retaggio che impegna i 5 Stelle, che risale alla... al primo esperimento di amalgama sovranista col governo giallo-verde. Su quello marciavano insieme, diciamo così, nello spirito anti-europeo, nell'idea addirittura inizialmente folle dell'anti-euro tout court. E quelle cose lì poi sono difficili da smaltire anche nel cambio di maggioranza che è seguito e che la storia ci ha messo davanti nei mesi recenti, diciamo così. Quindi sicuramente al suo interno i 5 Stelle hanno un problema, perché c'è una quota che sicuramente vede male tutto quello che viene fatto in Europa. Salvini è in campagna acquisti e ne sta raggranellando parecchi, e quindi evidentemente questa cosa qui è un tema per loro molto delicato. D'altro canto bisogna registrare il cambio di passo, quello sì, piuttosto deciso da parte del PD di Zingaretti, perché un po' pressato anche dal fronte interno, che comunque chiede anche una revisione della leadership, vedi Gori che non è l'ultimo sindaco. Sì, chiede maggiore leadership, se ho ben capito, oltre che più che revisione, diciamo, quella cioè è più l'hai aggiunto tu, chiede maggiore leadership, poi probabilmente allora, anche immaginando una revisione. Nella versione più buonista, diciamo così, ecco, maggiore leadership, appunto, non a caso da qualche tempo Zingaretti si è reso molto più visibile su temi strategici altamente divisivi, poi per gli alleati di governo dei 5 Stelle. Però fa bene, perché è chiaro che siamo un tornante della storia molto delicato, o lo prendi adesso il MES o non lo prendi più praticamente, o vieni, per così dire... O lo prendi in un altro modo. Alberto, resta con noi, perché adesso... Alberto, resta con noi, perché oggi era 24, però io poi su questo vorrei continuare, perché poi uno sbocco ci deve essere, spero che non sia, cosa che il Premier Conte è sembrato forse caldeggiare, un trasportare tutto in là... fino a settembre, quando poi arriverà l'ondata che tutti temiamo, e a quel punto, sotto la pressione di tensioni sociali, fai partire anche il MES. Vorrei farlo prima, personalmente, però la tua risposta dopo il GR24. Intanto ringrazio Massimo Bordignon, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. C'è un'Italia che vuole riprendere a camminare, a costruire un futuro migliore. Il mondo della formazione si impegna a offrire ai giovani l'eccellenza di cui hanno bisogno. Donato Medici, Managing Director di NABA, nuova Accademia di Belle Arti, ci parla di didattica in sicurezza. Con i suoi 40 anni di storia, NABA, nuova Accademia di Belle Arti, assicura anche in questo momento di incertezza la continuità del percorso formativo dei suoi studenti, nei campi delle arti visive e del design, in linea con le disposizioni ministeriali che incoraggiano la didattica mista online e in presenza. Grazie ai 20.000 metri quadri dei due campus di Milano e Roma, stiamo avviando importanti interventi per adattare gli spazi a nuove forme di frequentazione in sicurezza, dei laboratori che sono al centro della nostra didattica e al centro dello sviluppo creativo degli studenti. Tutto questo continuando a potenziare la piattaforma online per favorirne sempre più gli utilizzi progettuali e l'approccio multidisciplinare, così da garantire la carriera accademica degli studenti ovunque si trovino. Vai su radio24.it, entra in Imprese per l'Italia e scopri tutti gli approfondimenti. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio, per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni, e che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza. Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavoro-digitale. Ready? L'energia di Repower si fa sentire. Repower è efficienza energetica e mobilità elettrica per il tuo lavoro, elettricità e gas inclusi. Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la tua azienda. I've got Repower! Repower. Mail, riunione, mail, report periodico, mail, altra mail, riunione, prendo un caffè e mando una mail, ancora un'ultima mail. Con meno mail puoi recuperare almeno 2 ore al giorno. Meno mail è una soluzione SIAV per un nuovo modo di lavorare in digitale, anche in smart working. Meno mail e sei smart. Meno mail.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, è ancora con noi Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Un secondo di pazienza perché sono usciti i dati della Protezione Civile, devo dire che con tutti gli scongiuri del caso sono più che buoni, e il numero di decessi è sceso a 6 persone, che è il numero più basso dal 28 febbraio. I nuovi contagi sono 126, di cui 78 in Lombardia. I ricoverati in terapia intensiva, quindi dati clinici, sono meno di 100, sono scesi a 96, e appunto ci sono stati sostanzialmente ricoverati con sintomi, sono 40 in meno e sono 1120, di cui appunto 96 in terapia intensiva, meno 2. Quindi dati clinici, decessi, ricoverati con sintomi, ricoverati in terapia intensiva sono buoni, ci riportano, sperando di non... Ed è vero che la domenica delle volte i dati arrivano più in ritardo, quelli della domenica, però insomma ieri c'erano stati 22 decessi, 8 il giorno prima, oggi 6, insomma speriamo. Anche perché questi dati arrivano, non sfugge a nessuno, ormai a più di 2 settimane, 3 settimane, dal famoso 3 giugno di apertura delle regioni, e alcuni mi fanno notare anche a 2 settimane dai festeggiamenti per la vittoria in Coppa Italia del Napoli. Faccio notare che c'è solo un caso in più in Campania, speriamo. Allora, Alberto Rioli, dicevo, l'elemento politico, non è che il rischio qui è che si aspetti un peggioramento ulteriore del contesto economico, quindi settembre-ottobre, per chiedere il MES a fronte poi di appunto una situazione che sarà ancora più difficile? Seconda domanda che mi fanno gli ascoltatori: che implicazioni politiche potrebbe avere a livello di trattative sul Recovery Fund, che appunto assieme alla BCE è il pesce grosso di questa manovra, se noi fossimo così riluttanti ad adottare i soldi del MES? Quindi strategia del governo Conte, che ha 2 alleati che la pensano in maniera, soprattutto una parte dei 5 Stelle, in maniera opposta, e il rapporto con il resto d'Europa, anche dopo le dichiarazioni della Merkel. Allora, la prima domanda, secondo me bisogna rispondere dicendo che sarebbe un grandissimo errore, anche se dipende sempre da qual è il tuo punto di osservazione rispetto al quale fai le strategie. Conte in questo momento vede, come posso dire, rumors sempre più consistenti su un'eventuale messa in discussione della sua leadership, quindi la sua strategia è quella di prendere innanzitutto tempo di aumentare la sua immagine, cosa che sta abilmente facendo da molte settimane. Dall'altra, sarebbe un grande errore però immaginare una ulteriore recrudescenza della crisi economica, e peggio sarebbe ancora magari un secondo lockdown per poter attingere al MES, perché sarebbe ancora una volta un errore prospettico, nel senso non ha senso continuare con politiche di brevissimo respiro e tutte di emergenza per utilizzare fondi cospicui europei. Serve in realtà programmazione e capacità di spesa, grandissima capacità di lettura dei fatti sul medio periodo, e quindi ci viene servito su un piatto d'argento la possibilità di fare uno straordinario piano di revisione della politica sanitaria italiana, che non è tutta da buttare naturalmente, anzi tutt'altro, siamo per certi versi comunque uno degli esempi di eccellenza anche in Europa, ma abbiamo scoperto molte lacune che vanno tutte colmate naturalmente. Serve un presidio nuovo sul territorio, quindi un aumento anche del numero dei medici, quindi probabilmente un impatto anche sulla gestione delle facoltà di medicina. Serve un ulteriore impulso alla ricerca scientifica, lo abbiamo visto, anche se abbiamo anche lì punti di eccellenza. Servono naturalmente iniziative che riguardino il mondo prima della medicina, cioè quello dei laboratori, che sono fondamentali in questa fase, ma sono pochi e se ne parla troppo poco. E anche della produzione di reagenti, sappiamo tutto il tema dei tamponi, certo. Per non parlare, l'hai detto tu stesso prima, di che cosa potrebbe significare un piano razionale per la scuola, fatto bene per l'edilizia scolastica in questo momento, o meglio ancora per le operazioni di sanificazioni strutturali da fare di qui per sempre, ogni settimana in tutti i plessi scolastici, con criteri professionali che metterebbero in campo naturalmente un servizio super professionalizzato ad alto costo, ma che farebbe anche girare l'economia, diciamo. No, e questo, così rispondo a un ascoltatore, poi ti faccio rispondere alla seconda domanda, che dice, ma cosa vuol dire assistenza? Anche il MES, no, guardi, la differenza è un po' sempre. Per assistenza intendiamo i provvedimenti emergenziali, tamponi li ho chiamati io, dai 600 euro, la cassa integrazione che arriva fino alla cassa integrazione in deroga, ai 25-30.000 euro con la garanzia dello Stato, all'investimento a fondo perduto, quello per le aziende che hanno avuto un calo più del 33% fino a 5 milioni di fatturato e via così. Questi sono i provvedimenti, diciamo, tampone di sussistenza, ai reddito di emergenza e quant'altro. Poi però devi farla tornare a girare questa economia, non puoi pensare come fanno alcuni esponenti, e lo dico in maniera chiara a mio avviso dei 5 Stelle, che tanto si può andare avanti solo con reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, fondo perduto. Questo va bene per far sopravvivere la ciambella di salvataggio, poi però questo deve anche nuotare, i soldi non sono infiniti. Allora, altra cosa è prendere dei soldi e fare sti benedetti investimenti che significano poi fatturato delle imprese coinvolte, salari dei lavoratori coinvolti, che si spera poi spendano qualcosa e diano un po' di sollievo all'economia. Questo vuol dire passare da assistenza a far tornare a girare il più possibile l'economia. Non è la stessa cosa, attenzione, non si può andare avanti immaginando uno Stato, che un modello produttivo che vive di sussistenza. Il fronte invece europeo, Alberto? Guarda, io credo che l'Europa stia lì sul crinale a vedere se l'Italia ha davvero cambiato atteggiamento, ha davvero fatto una scelta consapevolmente europeista, senza ambiguità, senza sbavature, senza suggestioni che hanno avvelenato la discussione pubblica negli ultimi anni. Non c'è dubbio che l'Unione Europea ha dato un segnale fortissimo in direzione dei famosi Eurobond, perché non si possono più chiamare così perché non fa fino, diciamo, e non si no, può non fare, piace agli olandesi e agli austriaci, ecco, susciti ulteriori problemi, però quello sostanzialmente quello sarà la condivisione del rischio del debito, di bond comunque condivisi nel bilancio dell'Unione Europea. Quindi è stata fatta una grandissima apertura di credito a paesi come l'Italia, che chiedevano appunto questo tipo di attenzione già da molti anni. È chiaro che però dall'altro canto noi siamo osservati speciali, perché dobbiamo abbandonare queste scorie anti-europeiste, anti-euro, questa titubanza che vede invece che vedere alleati e partner, diciamo così, politico-economici, vede solo degli avversari. E quindi è sicuramente l'idea di non prendere il treno del MES darebbe argomenti a chi continua ad essere diffidente verso l'Italia. La posizione italiana, comunque, diciamo così, decisamente europeista. C'è un passaggio fondamentale, a mio avviso, in quello che hai detto. Adesso, superata la fase dell'emergenza, fase 1, in cui siamo stati anche elogiati, ci hanno seguito, la fase dei sussidi, che sono degli aiuti, quindi dell'assistenza, sussistenza, che sono arrivati in alcuni casi tardi, penso alla cassa integrazione ai 600 euro e quant'altro, o al prestito, diciamo, garantito al 100%, bisogna passare a una fase in cui, per essere credibile, devi predisporre piani di spesa. I piani di spesa non sono così fighi come gli stati generali, non c'è, diciamo, la possibilità di enunciare la rinascita, la palingenesi di questo paese, io invito a non farlo mentre la casa sta rischiando di crollare. Significa entrare sulla bretella di Campo Galliano, e quanti ospedali vuoi rifare, quante scuole vuoi mettere in sicurezza, che tipo di piano predizia scolastica, tutte cose che invece quando si entra lì restiamo. La capacità di elencare le voci di spesa nel dettaglio, di mostrare che tu questi soldi non li usi, non li prendi solo per motivi così, ma perché veramente, quello farà la differenza nella fase 2 o 3 del governo Conte, perché se restiamo alla teoria siamo fritti in questa fase. Grazie ad Alberto Orioli, e a proposito di questo vi racconterò dopo il traffico un piccolo caso che può sembrare, ma a mio avviso è emblematico, di come il governo fa un decreto, poi arriva l'Agenzia delle Entrate e con una circolare in parte glielo smonta. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Vabbè, al di là di chi mi dice guardi che MES vuol dire altro debito pubblico, anche se andiamo a raccogliere quei soldi col BTP, altro debito pubblico, ragazzi, cioè, non lo so, vabbè. Allora, a proposito di cosa vuol dire entrare nei dettagli, nelle pieghe delle cose, noioso, prosaico, non così, non glamour, torniamo su questo punto per l'appuntamento di ogni lunedì con Dietro la Notizia. Dietro la Notizia. Sì, dicevamo, il diavolo si nasconde nei dettagli, può essere noioso, non è così glamour come annunciare rivoluzioni e in qualche modo la palingenesi del modello economico, però poi quando devi andare a aiutare le imprese, noi continuiamo a dirlo, devi andare nel dettaglio dei singoli settori con le loro specificità, con le loro caratteristiche, non puoi solo fare enunciazioni di principio, peraltro molto spesso condivisibili proprio perché di principio. Allora, ce ne occupiamo oggi con Dietro la Notizia e ringrazio come sempre Alessandro Paterotti in collegamento con noi. Buonasera Alessandro. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, perché? Che cosa è successo? Nei vari articoli del DL Rilancio, lo ricorderete, insomma, quello che ho chiamato DL Ristoro, ma insomma, era prevista una norma importante perché per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, così recita il testo, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo precedente d'imposta a quello in corso, e quindi fino a 5 milioni di euro, spetta, stabiliva la legge, un credito d'imposta fino al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, quindi quelli destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Quindi va a prendere questa norma fino a 5 milioni imprese, mondo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo. E soprattutto del turismo. Esatto, del turismo, perché sai, 5 milioni poi iniziano ad essere una cifra in cui stanno dentro molti soggetti del turismo e a chi esercita abitualmente l'attività professionale di lavoro autonomo in quel luogo. Che cosa è successo, Alessandro? È successo questo, che come giustamente dicevi tu, non c'è niente di peggio in una crisi dell'incertezza su ciò che ti dice chi ti dovrebbe aiutare. Ed è esattamente quello che è successo. Per quale motivo? L'Agenzia delle Entrate, unilateralmente e contrariamente a quanto disposto dallo stesso governo, ha deciso, e questo riguardava, ricordiamo, 25 milioni, ma all'interno di quei 5 milioni le aziende che avevano avuto una riduzione del 50% del proprio fatturato. Secondo le stime stesse del governo parliamo di 750.000 imprese, quindi non parliamo di 7, 8, 10 o 100 aziende, ma 750.000 piccole imprese che hanno avuto una riduzione del 50% dei propri ricavi. Quelle che avevano preso in leasing dei macchinari e soprattutto degli immobili, e ma io parlo, quando parlo di macchinari, che è la parte più importante per noi perché è quella produttiva, beh, queste erano, secondo i calcoli del governo, più del 12%, quindi parliamo quasi di 80.000 piccole imprese che sono state tagliate fuori all'improvviso dalla possibilità di avere il credito d'imposta. Ora, se ragioniamo sulle cifre già che in questi giorni sono girate sui soldi che non sono mai arrivati e pensiamo che questa azione va a colpire proprio i più piccoli, cioè quelli che hanno continuato, noi siamo il paese che spesso si ricorda di gigante composto di nani, ma se continuiamo a tagliare le gambe ai nani non c'è più gigante, e questo è quello che sta accadendo. Ecco Alessandro, che cosa ha disposto l'Agenzia delle Entrate? Perché l'articolo 28 del DL del decreto legge rilancio era molto chiaro su questo, valeva per tutti questi soggetti fino a 5 milioni di euro e si poteva maturare un credito d'imposta fino al 60% della montagna. Guarda, te lo dico in sintesi. Questa nota è stata proprio degli ultimi giorni, ha escluso l'applicazione al leasing finanziario e al di fuori della stessa esplicita previsione della norma, limitandola al leasing operativo, cioè quello senza il riscatto finale, che sostanzialmente è una minoranza. Pensate, soltanto nell'immobiliare, parlo di capannoni industriali, quindi non parliamo di immobili abitazioni, è inferiore allo 0,05, cioè nessuno fa questo tipo di leasing su queste operazioni qua. E allora qual è il risultato? Che per l'Agenzia delle Entrate questo è un mondo che non esiste più, è come se avessero deciso di eliminarlo di colpo. Siccome sono 80.000 imprese che hanno avanzato hanno anticipato, hanno preso dei contratti su cui pagano anche degli interessi. Beh, questo mi sembra veramente, nel momento in cui stiamo ancora a discutere del MES, e oggi ho visto proprio in questa so anche voi, sono stati annunciati addirittura due nuovi BTP per raccogliere denaro e risorse per lo Stato, beh, insomma, qualcosa indietro, vogliamo restituirla se non altro alle stesse imprese che in questo momento sono quelle che non sanno quanto supereranno nemmeno l'estate. Ecco, io mi rendo conto che, e lo dico al governo, che parlare di leasing finanziario rispetto al leasing operativo sia meno così affascinante rispetto a ridefinire il modello di capitalismo del paese. Però, l'esempio che facevo però qualche... che non tutti. Allora, l'alternativa quale sarebbe? Andare in banca e fare il credito bancario, un prestito. Abbiamo visto tutti in questi giorni che cosa significa oggi avere nuovi prestiti dalle banche. Allora, se da una parte si è fatto poco per quelle categorie più esposte sulla concessione e sulle garanzie del credito, dall'altra parte l'unico spiraglio era questo dell'allocazione finanziaria, beh, insomma, a me sembra veramente discutibile quando sento dire stiamo facendo tutto per la ripresa. Questo, sì, ecco, quello che stavo dicendo è che è più facile parlare di un nuovo modello di capitalismo, ma va tutto bene, io lo dico che mi sta scrivendo, guardate, le due cose non sono in contraddizione. Io ho fatto l'esempio forse un po' forzato qualche giorno fa, è come se una coppia, marito e moglie, si mettessero a discutere di un nuovo rapporto, di una separazione, di un nuovo modello di rapporto nel momento in cui la casa brucia. Allora intanto sistemi la casa, poi chiarisci anche che tipo di rapporto vuoi avere, di capitalismo più green, per carità, tutto quello che volete, ma se poi tu lasci, e il calcolo è molto semplice, su 750.000 imprese coinvolte in questo provvedimento, almeno 80.000, cioè 12,5%, avevano leasing di carattere finanziario, spiegami perché queste devono essere escluse dal 60% di credito d'imposta, avendo loro appunto anticipato soldi su macchinari. Noi spesso, guarda, hai fatto un esempio giusto, perché spesso noi discutiamo del fatto che non competiamo in un terreno livellato, la Germania ha più soldi per gli aiuti alle imprese, ha più soldi di noi, la Francia. Beh, allora, queste sono le dimostrazioni del fatto che siamo bravi a lamentarci, a fare paragoni, ma poi nei fatti concreti, e ripeto, nei fatti concreti, le categorie più esposte sono sempre quelle che vengono lasciate indietro. E questo è un grosso problema italiano, che penso che Covid o non Covid, è ora che ci faccia un grosso esame di coscienza. Sì, perché da noi si preferisce filosofare che poi, sopravvivere, ripeto, quindi, delle volte. Ripeto, ecco, l'alternativa per questi piccoli è andare in banca. Chi ha avuto una contrazione, perdita di ricavi del 50%, in banca nemmeno lo ricevono oggi. Alessandro, c'è la possibilità che a questo punto in fase di conversione del decreto, perché il DL rilancio era un decreto, venga rimossa l'esclusione del leasing finanziario? Ma io so che sia la Confindustria che le associazioni di categoria del mondo del quello che una volta si chiama il parabancario, no? Il mondo del leasing, tutti si stanno mobilitando per qui non è soltanto una questione di fare affari, è una questione di circolo virtuoso, come ha detto spesso il governo e abbiamo sentito dire tante volte agli stati generali. Se vogliono veramente riattivare un circolo virtuoso nei rapporti fra economia e Stato, beh, questo non è il momento dei regali, ma è il momento del mantenere le promesse, per dare certezze, altrimenti, come vedremo, molti non riapriranno. Sono d'accordissimo con te e riavremo Alessandro Platerotti fra una settimana con l'appuntamento dietro la notizia. Mi scuso invece per l'approfondimento sulla situazione dell'autostrada in Liguria. Pochi istanti fa il sindaco di Rapallo ha annunciato che ha chiesto i danni, ha dato mandato agli avvocati di procedere contro Autostrade per l'Italia per chiedere i danni in seguito alle chiusure di questo periodo. La domanda che tutti si fanno è se sti lavori nelle gallerie importanti, quant'altro, nei viadotti, non potessero essere fatti durante i mesi del Covid, visto che in altre situazioni si è lavorato, e ne parleremo domani. Chiedo scusa, rimando l'appuntamento a domani. A chi mi dice invece, ma perché invece che continuare a fare debiti non stampiamo moneta, rimando a un saggio qualunque, anche un Bignami di economia, perché qui non posso rispondere alle domande, anche perché i mussi non volano, perché gli asini non volano. Cosa vuol dire stampare moneta? A parte che la Banca Centrale Europea, col cui sta esattamente facendo questo, immettendo liquidità sul mercato e tenendo i tassi bassi, ma non esiste un paese al mondo che stampi moneta senza conseguenze, se no avremmo trovato la soluzione, però adesso non posso farlo in finale. Do appuntamento a domani per un'altra puntata di Focus Economia. Intanto a tutti voi l'auguro di una buona serata.